Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, siete sintonizzati sulle frequenze di Onda Rossa. Oggi è giovedì 16 febbraio 15.01. Che dire, Fede? Episodi che cominci così? Comincio tristissima oggi. Ah. Episodi di repressione continui si susseguono in questo paese. La morte di un ragazzino causata dall'abuso e dalla incapacità delle forze dell'ordine di garantire la sua incolumità invece di far valere la loro forza. Di nuovo sgomberi oggi, sono stati messi sigilli, Federico, al Rialto, una delle realtà liberate di questa città da anni. Che dire, abusi che stanno qua in questa città, ma che sono anche lontani, ma insomma sono sempre gli stessi, gli abusi che ha subito Teo, la violenza fatta dalla polizia perpetrata su di lui in Francia, e tutto è stato archiviato, questo non se ne parla più, non fa più notizia. E si fanno ricorsi a poliziotti accusati di omicidio, penso a Cucchi. Che dire, repressione e violenza la fanno da padrona in questo paese, così come la repressione e le retate continuano all'interno di questa città nei confronti di chi è venuto, è scappato da realtà di tragiche, di povertà e di grande sofferenza. Spaventoso, perché questa repressione e questa violenza sono legittimate dal governo, da un sacco di gente, e sono sempre ad opera nei confronti di chi non si può difendere da questi abusi, da queste violenze, o perché non ne hanno la forza, o perché riconoscono che forse non è con la forza il modo giusto per difendersi da degli abusi. Poi ognuno fa quello che crede sia meglio, ecco. Domani c'è l'anniversario della cacciata di Lama all'università, un altro motivo per riflettere appunto su come siano poco cambiate le cose da quel lontano 1977, perché abusi e repressioni sono sempre di moda, e sarebbe arrivato anche il momento di cacciare non solo chi è protagonista di questi abusi, ma anche proprio le idee e chi perpetra un certo tipo di azioni. E questa riflessione triste la lascio così, perché proprio leggendo il giornale, insomma, preparando oggi certe cose, sono proprio amareggiata e preoccupata per l'incolumità di ognuno di noi, che è veramente messa a repentaglio in questo paese. E vabbè, tracce di cinema, non c'entra niente con tutto. Vabbè, questo no, era una riflessione che ti sentivi, quindi, sì, ma anche c'entra, perché comunque oggi è una puntata speciale, siamo ritornati a incontrare un compositore, cosa che non facevamo da diverso tempo, incontri che ci piace sempre fare, insomma, alternare con le nostre analisi, una parola grossa, di film e di colonne sonore. Ecco, sì, oggi un compositore che ha lavorato tanto in Italia ma anche all'estero, che ha lavorato tantissimo con un regista che ha un po' segnato un momento di grande rinascita nel cinema italiano. È stato un po' considerato uno dei registi che potenzialmente avrebbero potuto ridare potenza, forza e bellezza al cinema, e in effetti c'è anche riuscito con tantissimi film. C'è stato un sodalizio con questo compositore nato nel 1961, sto parlando di Giovanni Venosta. Il sodalizio cinematografico di cui parleremo e di cui ascolteremo le musiche è quello con Soldini. Infatti Giovanni ha curato tutte le colonne sonore di questo regista che torno al piccolo incipit che ho fatto, autore veramente di film molto legati a ciò che avviene all'interno della società. Penso, non so, a tanti film che ha fatto parlando di precariato, di sentimenti messi in discussione a causa di difficoltà economiche che non possono essere portati avanti, perché certe volte le problematiche di una persona sono più forti di quelle che potrebbero essere i sentimenti. Parlo appunto di Giovanni Venosta, di cui ascolteremo alcuni brani delle sue colonne sonore, appunto legate ai film di Soldini, ma non solo, perché insomma ha lavorato anche con tanti altri registi, e confrontandosi anche con un cinema internazionale, insomma, che dessi tempi per un compositore italiano non è proprio una cosa scontata, ecco. il Ponte sul fiume Po, una prima versione dal film Agatha e la tempesta, un andamento placido proprio da fiume con ogni tanto qualche picco di mulinello. Ma queste le sonorità, le musiche composte da Giovanni sono proprio come dei sospiri musicali. Tutti diversi, non si ripete mai nella sua composizione, nonostante abbia insomma lavorato tanto sempre con lo stesso regista, il che potrebbe anche magari far pensare che insomma ci sia un compiacimento nel ripercorrere anche un certo gusto, ecco. Invece questo non succede mai, un po' perché Soldini è una persona, un regista che non è mai stato uguale a se stesso in nessun film, anche se comunque, come dicevo prima, ha percorso delle strade a lui congeniali e che comunque sono state anche in forma di commedia e in altri film più drammatici. In questo insomma questa era una commedia, ma insomma in altri film i toni sono stati più seri, più complessi, appunto percorso tutta una serie di tematiche che comunque fanno parte insomma spesso delle questioni un po' più angoscianti, insomma, che riguardano la società, le persone, gli uomini e le donne. E dopo questa prima traccia abbiamo subito con noi il nostro ospite Giovanni Venosta, benvenuto a Tracce di Cinema su Onda Rossa. Giovanni, buongiorno a tutti. È un piacere averti con noi. grazie anche per me. Cosa volete sapere? Tu ci hai intanto mandato una selezione, un'ampia selezione dei tuoi lavori. Io partirei dagli inizi, Giovanni. Com'è cominciato il tuo rapporto con il cinema? Allora, il rapporto con il cinema inizia proprio da cinefilo. Da quando andavo al liceo negli anni 70, quando si aveva ancora la possibilità di avere dei cinema che facevano i cosiddetti matinée qua a Milano, mi ricordo che con un paio di amici, uno che diventò poi, ed è qui il tramite, che diventò poi l'aiuto regista di Soldini, ovvero Giorgio Garini, che poi è diventato un bravissimo documentarista, ma ha fatto a lungo l'aiuto regista di Soldini. Ecco che io insieme a lui, Aldo Fittante, che era un critico, che è un critico cinematografico, anche direttore della rivista Film TV e di altre cose, ci trovavamo per andare al cinema, già andando a scuola. E da lì la passione per il cinema è nata, quindi intorno alla mia adolescenza, continuata fino ai giorni nostri. Proprio sono un malato del cinema e questo ha fatto sì, questo aspetto, che io poi fossi uno dei migliori amici di quello che diventerà l'aiuto regista di Soldini, che mi ha fatto effettivamente contattare il primo regista con cui ho lavorato e quello con cui ho lavorato più spesso. Poi sono arrivati anche tutti gli altri. Per finire direi che ovviamente poi, al di là del fatto di avere questo rapporto, questo tramite, questa conoscenza, poi è sul campo, no? Sì, che bisogna dimostrare il proprio valore. Diciamo che io nel frattempo, da dopo essermi diplomato in pianoforte al conservatorio, io come compositore sono autodidatta. Dopo essermi diplomato in pianoforte ho sempre ascoltato musica altra e componevo musica altra, e a partire dai 23-24 anni ho cominciato a fare delle pubblicazioni di carattere sperimentale, un po' minimaliste, un po' elettroacustiche, pubblicate dalla Recommended Records di Chris Cutler, che è una prestigiosa etichetta inglese, e tramite queste pubblicazioni anche Silvio Soldini si è convinto a testarmi per il suo primo film, diciamo, ufficiale, che fu L'aria serena dell'Ovest, che è dell'89, sì, alla fine. Sì, sì. Ecco, questo è un po' l'inizio. Di cui credo che sentiremo anche un brano, forse, Giovanni, perché mi pare che l'hai messo nella Sì, scaletta. Ho messo i titoli di coda, per esempio, dell'Aria serena dell'Ovest. Senti, un brano che... Sì, sì. Dicevi, brano che... No, no, dico un brano che si, credo che si chiami L'aria serena dell'oro, titolo di coda, non mi ricordo. Sì, sì, sì, credo di sì. Sì, sì, sì, sì. Senti, come diceva prima Ottavia, una filmografia variegata quella di Soldini, e così anche la tua musica piena di influenze. Ecco, il fatto di aver fatto queste pubblicazioni che erano molto ispirate anche alla musica tradizionale, sì, europea, diciamo europea poi sempre più ad ampio spettro, europea, balcanica dell'est, extraeuropea, indiana, ha fatto sì che io gli potessi proporre al regista, in questo caso, ma anche ad altri registi, questa specie di melting pot prima dell'avvento della cosiddetta world music e del villaggio globale. A partire dall'inizio degli anni Ottanta mi occupavo e ascoltavo tonnellate di musica etnica di tutto il mondo, sì, e piano piano interiorizzavo linguaggi, stilemi di queste musiche e cercavo appunto di miscelarle con le mie esperienze più, come dire, avanguardistiche, così, e per poi declinarle in un aspetto più anche udibile e più che altro più efficace, no, per le immagini. Questo è stato un po'. E per quello che poi nelle colonne sonore di Soldini si sentono tante influenze, un po' perché comunque Soldini stesso ha sempre avuto un occhio di riguardo per le culture, no, che venivano anche dall'est Europa, ma non solo, e poi piano piano, quando si sentivo prima appunto che poteva esserci il rischio di compiacimento, ecco che noi ogni film che ci mettevamo a così, in cui ci mettevamo a lavorare insieme, si decideva e adesso cosa facciamo, cosa ci inventiamo. Cioè raramente ci siamo detti quello ha funzionato, anzi mai ci siamo detti quello ha funzionato per quel film lì, adesso squadra che vince non si cambia, no? E lo riutilizziamo. Ecco, questo non è successo praticamente mai. Anche in un film, per esempio, come quello che abbiamo sentito ora, che era L'Agata e la Tempesta, che poteva figurare come una sorta di Pane e Tulipani 2, no? Una sorta di sequel ideale di Pane e Tulipani, ma la musica di Pane e Tulipani e Agata e la Tempesta sono vagamente imparentate per questo afflato un po' di folklore, chiamiamolo anche assolutamente non leghisticamente padano, perché nel senso che è un folklore reinventato, sì, che fa parte della cultura dell'Italia centrale e del nord, insieme però al tango, alla musica appunto dell'est europeo, alla musica minimalista classica, eccetera. Non un caso che uno degli strumenti leader della colonna sonora di Un'anima divisa in due, che poteva essere la fisarmonica, decidemmo poi che fu l'armonium indiano, che Giorgio Garini si comprò dall'India. Abbiamo poi passato tantissimo tempo, io e Giorgio Garini, in giro per il mondo a viaggiare, a sentire musica, e quindi al posto della fisarmonica abbiamo l'armonium indiano, che ha un timbro un pochino più rozzo e anche più limitato, ma anche più caratterizzante. Beh, Giovanni, allora intanto mi viene la curiosità rispetto, perché abbiamo avuto ospite tanti compositori straordinari, devo dire, durante questi due anni di Tracce di Cinema, e tutti quanti hanno parlato malissimo del conservatorio. Leggendo la tua biografia ho sorriso, perché c'è questo aneddoto del quale tu racconti che insomma non sei stato ammesso all'esame di ammissione quando avevo 10 anni. No, allora, già l'esame di ammissione a 10 anni fu complicato, perché comunque c'era una sorta di improbabile numero chiuso, ma quello di composizione proprio, ecco, quella, un po', appunto, tipo, sì, ripercorrendo le cose tipo verdiane, no? Che non è mai stato ammesso al conservatorio, poi il conservatorio di Milano si chiama Giuseppe Verdi. Ecco, in quel caso ho detto ah sì, non mi volete? Va bene, e allora vado da un'altra parte. E da lì, dimmi pure. Sì, no, continua. No, e da lì, diciamo, questo liberarmi dall'accademia, da una parte forse mi ha limitato, perché io sicuramente non sono uno di quei compositori che gestisce l'orchestra, no? L'orchestrazione, come uno che l'ha studiata per 10 anni al corso di composizione. Dall'altro mi sono liberato e sono riuscito ad applicarmi in tecniche compositive anche di aleatorie, ma di aleatorie nel senso di gestione dell'improvvisazione, jazz e folk, che derivavano dai miei ascolti e dai paralleli miei lavori fatti con comunque con quel mondo avant-garde che era quello dell'etichetta inglese, del prog inglese, che poi diventano altre cose e così via. Un po' io vengo un po' dalla stessa scuola di Aldo Descalzi, che fu anche il fondatore dei Picchio dal Pozzo, che era uno storico gruppo del prog italiano della fine degli anni 70, inizio anni 80. Ed è un po' un déjà vu questo, mentre ti sento parlare, perché mi ricordo Enrico Melozzi che raccontava appunto le sue vicissitudini in accademia, o quelle di Valerio Vigliar, anche lui traumatizzato, certo, da questa entità quasi burocratica, no? In cui c'è tutta una serie di gerarchie, di regole da rispettare, che in fondo, no, poi la musica, l'arte non dovrebbero, nascono proprio da un impeto che non segue delle regole, ma segue proprio la... Per fare un esempio classico e odierno, io insegno a un corso di laurea di musica per immagini a Milano, alla scuola di civica Claudio Abbado, e gli allievi che abbiamo, la dozzina di allievi che abbiamo, può succedere che capiti qualcuno che è già al X anno di composizione al conservatorio, e invece altri arrivano o da niente oppure da pratiche autodidattiche. Ecco, non è detto per niente che funzionino meglio quelli che arrivano dall'accademia e che sanno gestire l'orchestra. Spesso sono più geniali e interessanti gli altri. Credo anch'io, non essendo un'esperta, ma insomma penso anch'io. Beh, e poi soprattutto sento questa potente fantasia che viene dalle tue musiche, questa che sono veramente una commistione di tantissimi suoni, di tantissimi elementi, cioè questo elemento orientale, io l'ho sentito tanto ascoltando i brani che ci hai mandato, e mi è piaciuto moltissimo. Ma leggendo insomma un po' di cose, per esempio su questo film, su Agatha della Tempesta di Silvio Soldini, uscito nel 2004, c'è stato un articolo che ho trovato nella rete, in cui parlava delle musiche che appaiono all'interno del film proprio mentre Licia Maglietta smette di ballare e partono le musiche. Quindi ho pensato, wow, che fantasia, è incredibile, cioè attaccare con la musica quando una scena perde la sua dinamicità musicale, no? E certo, mi sono chiesta, certo, chissà che cosa è avvenuto tra Soldini e Verossa, chissà che cosa si sono detti per pensare questa cosa, chissà se si sono detti qualcosa o se è stato soltanto Soldini oppure no, se l'hanno insomma deciso insieme. È una tecnica mista che può anche derivare da una figura altra importantissima, che è quello del montatore, in questo caso della montatrice Carlotta Cristiani, che ha una sensibilità musicale piuttosto sviluppata. Quindi questo tipo di scelte, a parte che si fanno sul campo, nel senso mentre si monta, e quindi magari non sono scelte che vengono previste a tavolino in sede di sceneggiatura, ma nel momento in cui si sta montando si può intervenire per non andare sempre nella direzione classica delle scelte più tradizionali, ma non per fare gli stravaganti, ma perché magari togliendo la musica in un certo punto si nota ancora di più una cosa, cioè anche togliendo certe volte la cosa risalta di più, non solo mettendo, no? Cioè ci sono tutte queste tecniche che poi piano piano uno affina e si rende conto provando, come può succedere spesso e volentieri, magari di scrivere una tal musica per una tal scena da compositore e con l'accordo con il regista, e poi il regista e il montatore decidono che quella musica buttata magari a caso sette scene più avanti e non prevista per quella scena funziona molto meglio che in quell'altra, che poi rimane muta. Cioè, quindi succedono anche delle cose, diciamo, in itinere, sperimentando col fatto che chiaramente le nuove moviole sono digitali e quindi c'è questa grande possibilità di in velocità di poter scambiare e interscambiare, no, le tracce musicali, cosa che una volta, quando c'era la maviola tradizionale, ogni volta che si doveva fare una prova e smonta tutto e rimonta tutto, e lì chiaramente fai tre di prove e poi dici adesso basta, se no lo montiamo per i prossimi 4 anni. Era questo. Sai, sempre ricercando nella rete qualcosa a proposito di te e delle colonne sonore composte per il bravo Soldini, senza nulla togliere a lui, anche perché non l'ho detto io, però comunque insomma sì, ricordando un po' alla lontana i suoi film, perché insomma sono gli ultimi sono usciti qualche tempo fa, ecco, li ho visti tutti, sì, ma insomma la mia memoria sì, certo, è quella che è, e si parla di film importanti, fondamentali per la cinematografia italiana, perché come stavo dicendo prima con Federico, Soldini insomma è stato un po' una giovane tra virgolette speranza del nuovo cinema italiano, di una rinascita e di un nuovo periodo, insomma, e forse lo è stato anche, insomma, questo io non lo so, non sono un critico, però ecco, parlando di lui e sentendo parlare di lui, si parla solo delle tue colonne sonore, cioè nel momento in cui il critico insomma si distrae un attimo, attacca con delle cose stupende a proposito di te e delle tue colonne sonore del film, quindi mette da una parte il povero Soldini che poi alla fine ha fatto sì un film, sì vabbè carino, bello, sì, ma sì, ci ha parlato un sacco di cose, sì, però la colonna sonora curata da Giovanni Venosta è fondamentale per la buona riuscita del film, e questo credo che sia stata una bella soddisfazione, no, perché non so se l'hai beccata, no, certo, su internet questa cosa, io l'ho beccata in diversi, no, film, non so, magari è lo stesso critico che sta in fissa con te, non lo so, eh? No, infatti praticamente chissà, non lo saprei, dovrei sapere chi è, ma no, a parte gli scherzi, evidentemente la responsabilità comunque di un orecchio attento, no, che quindi diventa un regista in qualche maniera musicale, fa sì che tu possa anche esprimerti in una certa maniera. Tra l'altro mi fa particolarmente piacere questa cosa che mi dici, perché è vero, anche su, non so, sulla enciclopedia del cinema Mereghetti, tutti i film Soldini hanno sempre la striscetta sotto dedicata alla colonna sonora, allora, che non è automatico, dico che non è automatico, no, per niente, no, perché ne leggo altre critiche, non è così. Bisogna dire però anche che la cosa mi fa piacere perché Soldini, essendo un regista direi così di matrice bressoniana, cioè uno che comunque non ama molto enfatizzare con effetti speciali o musiche psichedeliche le scene per farle diventare più appetibili, è uno che la dosa tantissimo la musica, cioè la musica in un film di Soldini è presente fino a un certo punto, mm-hmm, con altri registi ne hanno usata molto di più in proporzione rispetto al rapporto musica immagini, sì, lui la mette solamente quando ne sente assolutamente l'esigenza. Ho letto anche questo, per delineare gli, ecco, spazi e non i sentimenti, il che devo dire che è proprio una cosa importante, perché quando inizi a utilizzare la musica per enfatizzare, no, uno stato d'animo, una certa cosa, certo, allora vuol dire che poi la scena poi alla fine non è così potente, così, no? Ti sfrutti, esatto, un po' sta cosa della musica, cosa del della segno, emozionale, no? Certo, cioè del doppio segno, ovvero non è detto che in una scena drammatica o in una scena particolarmente amena, cioè di segno opposto, si debba mettere sotto una scena drammatica una musica molto drammatica e in una scena amena una molto leggera, nel senso che spesso il doppio segno non fa altro che enfatizzare una cosa che lo spettatore ha già capito che sta accadendo, quindi magari serve una musica di tipo diverso, non dico di tipo opposto, ma di tipo diverso, oppure appunto, e torno, infatti mi hai dato la giusta imbeccatura, che Bresson era uno che usava la musica come punteggiatura, la usava pochissimo e delimitava gli spazi, assolutamente. In questo senso Soldini è un regista un po' francese da questo punto di vista, diciamo francese moderno della corrente post-bressoniana, quasi da dogma di Von Trier, con le dovute eccezioni, ecco, perché anche Von Trier slancia dogma, niente musica, niente più, poi quando lui fa i film dice col cacchio dentro musica, la metto io, voi i miei adepti che non la mettono, ma io la metto, capisci? È un po' come Bach che dice vabbè, io contravvengo alla qualsiasi regola compositiva, intanto gli altri seguono pure la scuola, e poi andiamo a vedere cosa succede. E tornando alla musica, stiamo per mandare in onda i titoli di coda di Brucio nel vento, ne abbiamo parlato proprio con te perché c'è la voce, la splendida voce di un artista bizzarra che ci raccontavi, no Giovanni? Di Sissi Atanasova. Esatto. Sì, esatto, di questa cantante. Sì, ma anche quelle robe sono, questo è un vero aneddoto, queste sono le cose che succedono accidentalmente che poi fanno partire, diciamo, si parte per altre direzioni. Cioè la cantante Sissi Atanasova è stata chiamata perché? Perché un brano, una scena che era definita da un brano da discoteca di tipo balcanico che io avevo come consulente musicale proposto a Soldini. La scena viene girata con quel brano, in sede di montaggio si va a comprarne i diritti e queste persone, quelli che tengono i diritti, chiedono una cifra spaventosa che la produzione non ha più, e quindi io mi offro per farne una cover, o meglio un sound alike, perché la cover è un riarrangiamento dello stesso brano, devo fare una cosa che ci suoni simile. Per suonare simile io ho dovuto comunque attivarmi per dire: ma chi la canta sta cosa, che era cantata in bulgaro, mannaggia? E allora mi attivo con amici, facciamo un casting di voci nell'est Europa e arriva questa cantante di origine rom, diciottenne, praticamente mai uscita da Sofia, che viene catapultata a Milano, canta questo brano e, siccome lo finisco anche abbastanza in fretta, Soldini, che non si fa mai lasciare perdere niente, dice: ma perché che hai ancora un pomeriggio libero non la fai un po' cantare sulle tracce del film che abbiamo fatto? Ed ecco che poi tramite un'improvvisazione guidata l'ho fatta cantare qui e là, e poi questa parte di colonna sonora è diventata il core, no? il nucleo centrale della colonna sonora. Queste sono assolutamente le casualità che poi fanno diventare un film da una parte invece che da un'altra, ed è continua nella storia del cinema, è continua questo modo di procedere. Allora Giovanni, ci sentiamo tra un po', intanto ci godiamo proprio Brucio nel vento, i titoli di coda. A dopo. Perfetto, grazie, ciao. Dai titoli di coda di Brucio nel vento, una musica che mi piace talmente tanto che è tra quella che porto sempre con me, Ottavio. Che al contrario delle colonne sonore del nostro Venosta, questa insomma è stata considerata dai critici una colonna sonora straziante. Beh, il film era anche abbastanza angoscioso, nel senso che metteva a nudo proprio lo squallore e le tristezze dell'animo umano, delle difficoltà, una storia d'amore difficilissima, di fantasmi, di angosce, con addirittura un pensiero di omicidio che attraversa insomma il finale del film. Un film del 2010, sempre di Giovanni Soldini, Brucio nel vento, presentato ai tempi al Festival di Berlino, acclamato, insomma non ha vinto nulla, ma è stato amatissimo durante la sua proiezione, è stato candidato ai Nastri d'Argento per la migliore regia. Ma quando mai Giovanni Soldini non è stato candidato ai Nastri d'Argento o a dei premi internazionali? Davvero un autore, un regista i cui film sono così lineari, le storie sono così pure e disarmanti, che ti fanno proprio pensare a una regia, un tipo di narrativa che era quella insomma del cinema neorealista, senza troppi orpelli, senza troppe cose, senza troppe ricerche, costumi eccetera, delle cose essenziali, fotografie perfette, spesso di Luca Bigazzi, grande direttore della fotografia, musiche straordinarie come quelle del nostro Giovanni Venosta, attori che non sono quasi mai degli attori di culto, degli attori di grido. Ma insomma, in questo caso protagonista Ivan Franek, che ha fatto tanti film in Italia, a me ricorda tanto Mimmo Calopresti. È vero, sì, gli assomiglia. Però ecco, non sono degli attori come insomma, mi ricordo una polemica, no, tra Moretti e Monicelli, no, che gli diceva: tu fai film, è facile fare film quando uno usa tutti questi attori famosi, è ovvio che è più facile fare un film. Ecco, non è il caso di Soldini, che usa dei grandissimi attori, potentissimi, mi viene in mente Battiston, che insomma ricopre sempre dei ruoli che non sono proprio da protagonista, ma insomma è talmente intenso, è talmente bravo, ha una personalità talmente forte che poi la fa da padrone nella scena in cui insomma è protagonista. E come lui altri attori, ecco, lui riesce a creare dei film con un amore, con un' attenzione, con un piccolo riguardo verso i dettagli, che ne fanno dei film speciali e unici, ed è per questo che probabilmente è stato considerato ai tempi, quando è iniziato a fare cinema, quando è uscito il suo primo film di cui abbiamo ascoltato adesso i titoli di coda, ecco, la musica dei titoli di coda, è stato considerato uno dei più grandi rappresentanti di una rinascita del cinema italiano, no, che poi c'è stata. Non era però uno dei, era abbastanza più in là, Brucio nel vento. Ah, sì, scusami. Non è. Poi hai fatto una fusione, l'hai chiamato Giovanna, hai fatto una fusione tra autore della colonna sonora e regista. Sì, vabbè, in realtà, scusate. Allora dovremmo chiamare Silvio Venosta. Sì, vabbè, proseguiamo con Giorni e nuvole. Non dico solo cazzate. روزها و ابرها روزها و ابرها روزها Da giorni e nuvole la traccia numero 4, qui è segnato semplicemente il numero romano 4. Giorni e nuvole, Margherita Bui, bravissima, è stata candidata, ha vinto, no, non è stata candidata, migliore attrice protagonista, e anche premio come migliore attrice non protagonista Alba Rockbacher, Nastro d'Argento, David di Donatello, insomma un film pluripremiato, anche questo di grande successo. Era il 2007, Giorni e nuvole. Il film è una meditazione sull'incertezza del lavoro e della stabilità familiare. Altri elementi che però ripercorrono il percorso, la storia e la sensibilità cinematografica di Silvio Soldini, regista che ha insomma con delle storie più o meno libere dalla letteratura, scritte da sceneggiatori, da lui stesso, insomma affiancato a altri scrittori, ripercorrono quelle che sono un po' le difficoltà e la drammaticità della società in cui viviamo, con grande potenza, con grande leggerezza, senza rompere troppo le scatole, ecco, mi viene da dire. E a proposito di esordi, l'ha citata prima, per cui la mettiamo, titoli di coda dell'aria serena dell'Ovest. Titoli di coda, l'aria serena dell'Ovest, cara Otti. Ma le senti quanto sono diverse tutte le musiche di Giovanni? È proprio forte, mi piace un sacco. No, perché davvero questa cosa dei compositori, no? Poi alla fine io penso sempre, adesso a uno, non dico il nome, che tutte le volte che vedo un film e c'è la sua colonna sonora dico mamma mia, uguale all'altra. E invece con Giovanni questo non succede, beato lui, bravo, meno male, sono contenta, dà un tocco di originalità sempre a tutti i film e non è cosa da poco, perché nei film si rischia un po' questo quando uno compone. No, Giovanni, c'è in linea? No, cioè, adesso no, lo richiamiamo. Lo richiamiamo. Vabbè, allora chiudiamo questa parentesi Soldini, basta con Soldini. La chiudiamo, Guerre sans image? Sì, no? Se vuoi. Okay, va bene, dai. Image, on va danser, questa dal, siamo nella parte finale della trasmissione, per cui abbiamo nuovamente in collegamento con noi Giovanni Venosta. Giovanni, allora, intanto ben ritrovato, volevo chiederti già da prima, dove ti sentiremo prossimamente? Sei al lavoro su qualcosa? Allora, da un punto di vista filmografico, i primi due progetti che ho sono del 2018, quindi bisogna aspettare un pochino e poi sempre che vadano in porto, perché mala tempora currunt, come mi immagino ecco. Sì. Io ho in questo momento ho dei progetti concertistici, dove mi porto, per esempio, in trio, un'anima divisa in trio si chiama il progetto, dove faccio una sorta di lezione concerto in cui spiego e parlo di quattro colonne sonore dei Fini Soldini, poi suono in un gruppo afrobeat e poi suono in un gruppo di avant-garde di rock giapponese e poi cose di questo però genere. Per questo c'è il tuo sito internet come riferimento. Esatto. Allora, in chiusura, Giovanni, un film, una colonna sonora o qualcosa del genere che ti piacerebbe fosse trattato a Tracce di Cinema? C'è una musica, un film le cui musiche ti hanno emozionato, ti piacerebbe sentire? Beh, il film a cui forse sono più legato da un punto di vista musicale è Stomago, questo film brasiliano che mi ha permesso anche di essere nominato all'Oscar brasiliano, ed è un film pieno di musica fatto da un regista, Marcos Jorge, pieno di talento, in cui con quel film vinse tutti i premi possibili, non solo in Brasile ma in tutto Sud America. Fummo invitati alla Berlinale, vinse il premio del pubblico a Rotterdam, insomma fu un film che fu un caso, che ormai stiamo parlando di 9 anni fa, un film dove ho messo in cantiere tutta la mia conoscenza della musica brasiliana, che è un altro mio pallino, e l'ho mischiata con le mie, però c'è dentro anche la viola da gamba, cioè quindi uno strumento del 1600 suonato da un docente della scuola di viola da gamba, c'è il fischio di tradizione alessandroniana da appunto Morricone, c'è un trattamento alla Nino Rota richiesto dal regista e così via. Quello è un film a cui sono molto affezionato. E allora chiuderemo sicuramente con quello. No, però Giovanni, ma c'è pure Gas Balzante, come facciamo? No, c'è spazio solo per una. Mettiamo Stomago. Senti, sicuro? No. Siete sicuri che facciamo Stomago? Sì. Vabbè. Senti, e invece più in generale, musiche di altri, qualche film che ti ha, qualche colonna sonora che ti ha veramente emozionato? Non fare l'egocentrico, Giovanni. No, ma non esiste al mondo, nel senso che figurati, addirittura ho una rubrica sulla rivista FinTV mensile che parlo di colonne sonore di altri, l'egocentrismo è... Ti sei salvato in corner. Nell'ascolto. Io ho sempre detto ai miei amici tutti quanti, se dovessimo dirmi oggi smetti di fare musica, non colonne sonore, per sempre, o smetti di ascoltare musica, ma smetto di fare musica adesso, cioè io senza ascoltare musica degli altri non posso vivere, non è possibile, non è cosa. Invece anche senza Venosta chi se ne frega, il mondo va avanti lo stesso, questo intendo, io ho sempre avuto questa filosofia. Magari non nello sonore, stesso modo. Sì, dimmi. Magari non nello stesso modo senza Venosta. Non, grazie. Fishing for compliments, questo si chiama. Quindi io, uno dei più grandi compositori, secondo me, che c'è adesso, e l'ho scritto anche in una di queste mie contributi che si chiama Soundtrack, la rubrichina su FinTV, si chiama Cristóbal Tapia de Ver, che è un compositore cileno-canadese molto noto soprattutto per alcune serie di culto TV, dove però sperimenta come un pazzo, tra cui Utopia per esempio è una di queste, poi anche noto al cinema per altri film sempre abbastanza originali, dove lui si scatena veramente a quasi di più, ho scritto proprio quasi di più oggi nel linguaggio della serie TV si nota una certa attenzione alla colonna sonora nel senso proprio del segno diverso, fino anche alla stravaganza, ma comunque c'è una vera attenzione, e quindi questo compositore che scrive anche per il cinema tanto, però credo che sia interessante. Una delle più belle colonne sonore che ho sentito negli ultimi tempi è di un film veramente tosto di Villeneuve, quello di Arrival, ma di due film fa, cioè Enemy, che era un film con Gyllenhaal abbastanza strano e onirico, fatto da questo duo che si chiamano Yuri Hans e adesso non mi viene in mente l'altro nome, adesso ve lo dico, si chiamano Yuri Hans e e buonanotte. No, va bene così. Bensi e Urians, che hanno fatto un sacco di colonne sonore. Questa Enemy ha una colonna sonora straordinaria. Un abbraccio e a presto, Giovanni. Grazie, a presto. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ci sentiamo allora giovedì prossimo con Tracce di Cinema, sempre dalle 3 alle 4. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. Questo è Giovanni Venosta da Estomago.